Teheran. Tre case, tre modi di vivere e tre piscine assai dissimili fra loro contraddistinsero il nostro forzato soggiorno a Teheran. Ci recammo dapprima dal dottor Davis, che viveva in un bungalow appartato in un angolo dell'ambasciata britannica a Gulhek. Eravamo stremate. Una dimora all'inglese ci accolse avvolgendoci con la sua naturale semplicità. Luce soffusa dagli abat-jour della veranda, nero di seta del cocker sdraiato sul bel tappeto, dolce euforia di sorseggiare whisky chiaro prima e dopo cena. La marmellata d'arancia diffondeva i suoi riflessi dorati sulla tavola della prima colazione, mentre i bambini già correvano a tuffarsi nelle acque trasparenti della piscina dalle mattonelle di smalto turchino. Era la nostra prima tappa, poiché ero ansiosa di mostrare la mia mano ustionata al cortese dottore da cui prendemmo commiato qualche giorno dopo per lasciare posto ad altri visitatori. Andammo quindi ospiti presso i Vernazza nella loro dimora estiva in Iran, una costruzione stretta con veranda sopraelevata dove tre belle arcate si aprivano sulla simmetria di un giardino. La venerabile piscina non era certo usa a vedere oziare sui suoi bordi donne coperte da costumi da bagno di proporzioni ridotte. La giada della sua acqua opaca si illuminava di lucidi riflessi quando un raggio di sole rifratto incontrava una zona d'ombra. Nelle eleganti stanze interne si beveva vermut all'ora dell'aperitivo e acquavite sopra fino a dopo cena. Discutevamo sulla prelibatezza di questo o di quel cibo durante i pasti, i quali terminavano con un caffè dall'aroma vellutato, mentre i genitori osservavano con naturalezza il loro unico figlio. Il caldo era però così opprimente che ancora una volta preferimmo cambiare sistemazione. La nostra terza piscina, bordata da una sorta di rocaille, era fredda da mozzare il fiato. Un kanat, canale sotterraneo persiano, riversava acque provenienti direttamente dall'Elburz, il massiccio che sbarra il cielo a nord di Teheran. I giardini delle tre dimore, dove fummo ospitate, si trovavano tutti a Kimran, oasi nel deserto pietroso che dalla città sale fino ai piedi della montagna. Soltanto qualche centinaia di metri li separavano, ma correnti d'aria costanti ne cambiavano di molto la temperatura. Quest'ultima piscina rinfrescava gradevolmente il parco del consolato tedesco. All'ombra di platani maestosi, cinque bassotti dal muso appuntito si rotolavano sull'erba come piccole foche. Di solida costruzione, la casa in stile europeo si armonizzava con la birra spumeggiante servita ogni ora del giorno e della notte. Dopo cena andavamo tutti al bar, triste stanza ammobiliata alla turca, dove il ministro offriva degli schnapps. Il figlio si ritirava presto, poiché lavorava alla stesura di una tesi sulle isole Bahrain, pomo della discordia nel Golfo Persico. Era stata messa a nostra disposizione una piccola casa destinata agli ospiti e, invitandoci a prenderne possesso, ci avevano detto: «Potete restare fino a quando deciderete di rientrare in Svizzera, dato che non vi sarà permesso procedere oltre, verso Oriente». Il portiere, davanti alla sua guardiola, i giardinieri, la lavandaia, i domestici, tutti facevano il saluto hitleriano al nostro passaggio. Alcuni di loro si credevano in dovere di spiegarci, nel loro tedesco rudimentale, che gli inglesi erano psiar harab, molto cattivi. Non sospettando assolutamente che nei giorni precedenti eravamo state ospiti proprio dell'ambasciata britannica. Il cuoco, un energico iraniano, i cui capelli tinti malamente rattristavano la vista e i cui ordini urlati ai subalterni ferivano le nostre orecchie, ci mostrò con orgoglio di essere menzionato nella Breslauer Zeitung in occasione del suo 50° anno al servizio della Germania. Nei miei ricordi, la piscina del dottore è legata al dolore per la mano ustionata, la seconda, l'antico bacino d'acqua persiano, al caldo torrido che non permetteva di dormire, e l'ultima, quella dell'ambasciata tedesca, alle sue fresche acque nei cui pressi mi sforzavo di scrivere qualche articolo, o mi tormentavo per Cristina, sentendomi preda di quella continua alternanza tra mondo oggettivo e soggettivo che avrebbe segnato tutto il corso del mio viaggio. Con il dottor Davis discutevamo soprattutto di itinerari, di luoghi dove accamparsi, di tecniche per spostarsi più agevolmente. I nostri ospiti francesi amavano farci partecipi degli ultimi pettegolezzi della capitale. L'affascinante principe Firuz, proprietario di una casa a Farmanieh, dove Cristina aveva abitato 4 anni prima, era da poco tempo deceduto in prigione e la causa vera della morte sembrava da ricercarsi nella sua sfortunata parentela con un pretendente un tempo appoggiato dai britannici. E che si diceva del libro di Maud Rosen? In quelle pagine non mancavano parole d'elogio per Sardara Kram, maestro e guida spirituale dell'autrice che aveva fedelmente annotato ogni sua parola. Questi apparteneva a una delle due famiglie che potevano impunemente incontrarsi con gli stranieri, libertà che significava diventare automaticamente informatori dello Shah. Coloro che pensavano di poter fare altrettanto si preparavano un destino di disgrazia o di morte. Nel XX secolo esiste ancora sul nostro pianeta civilizzato più di uno stato dove i sudditi non osano avere contatti con europei desiderosi di conoscerli personalmente e non soltanto attraverso i libri. Sì, lo Shah vedeva, sapeva, controllava tutto quanto succedeva nel suo paese. Eravamo al corrente dell'ultima storia? Lo Shah doveva visitare un villaggio assai distante. Il sindaco, che non aveva eseguito l'ordine regio di piantare degli alberi lungo la via principale, pensò di rimediare mettendovi al posto rami appena tagliati. Lo Shah arrivò e ripartì senza che sembrasse accorgersi della sostituzione. Una settimana dopo, inatteso come un tuono nel cielo terso, ritornò e naturalmente tutti i rami erano ormai secchi. Il sindaco fu condannato a morte per aver osato ingannare il re dei re. Nelle stanze ai piani superiori del consolato tedesco si discuteva di politica. Sì, il popolo iraniano soffriva di una povertà deplorevole, ma lo stesso era accaduto ai prussiani prima che diventassero potenti. Soltanto un tiranno era in grado di risollevare un paese fatiscente come l'Iran. Le idee liberali in auge nell'Occidente sono assolutamente improponibili in questo paese. Asseriva con energia Herr Sment. E anche voi ve ne rendereste conto se non foste fuorviate dai preconcetti. Lo Shah ha il preciso dovere di accumulare fortune il più rapidamente possibile. Soltanto così può assicurare l'avvenire della propria dinastia e al contempo cautelarsi contro una possibile nuova rivoluzione. Benché in Iran la colonia tedesca fosse 10 volte più numerosa di ogni altra, il ministro ci assicurava che la Germania non aveva nessuna mira politica sul paese, ma unicamente interessi commerciali. D'altronde, soggiungeva, lo scopo era stato raggiunto da quando i migliori uomini d'affari della sua terra si erano decisi a venire a Teheran. Una sera a cena, eravamo sedute accanto ai fratelli Mezzaforte, soprannominati Pianoforte e Whiskyforte, che in tempi lontani erano stati nominati simultaneamente conti e sudditi iraniani. Essi dileggiavano l'Inghilterra perché corteggiava la Russia, gigante dai piedi d'argilla, considerando quell'alleanza troppo debole per tener testa al forte blocco italo-tedesco. Qualcuno soggiunse che Hitler era un santo poiché salvava l'Europa dai bolscevichi. Con calma Cristina fece notare che un santo non avrebbe mai adottato metodi da gangster. Quando l'uomo replicò dicendole che era vittima della propaganda giornalistica, vidi la mia compagna irrigidirsi in un'espressione di collera violenta. Il nostro ospite non dissimulava le proprie simpatie per il nazismo, ma al momento il figlio si era lasciato incantare dagli occhi blu pervinca della giovane erede del ministro britannico ed egli ammetteva che la presenza degli inglesi in Iran giovava a raffinare e ingentilire la razza germanica. Tutti erano persuasi che non avremmo potuto continuare il nostro viaggio e poco mancò che quel ragazzo salisse sulla nostra Ford per raggiungere la sua bella dagli occhi blu sui pendii del Damavand dove campeggiava. Il ministro riteneva che mai avremmo ottenuto i documenti necessari dato che lui, lo straniero più influente di Teheran, non era riuscito a far partire verso l'est 4 importanti uomini d'affari venuti dalla Germania per recarsi a Kabul. Costoro erano costretti già da 3 settimane a una sosta forzata in un albergo di Teheran e probabilmente gli addebitavano la colpa di tale rinvio, non potendo ammettere che erano le autorità a opporsi al loro viaggio. Durante il nostro soggiorno a Teheran si manifestò nell'Iran orientale un'epidemia di colera, un regalo di quelli che erano definiti gli impossibili afghani che vivevano dall'altra parte della frontiera. La strada di Mashhad venne chiusa e furono inviati numerosi medici provvisti di 70.000 fiale per iniezioni nella zona a rischio. Alcuni viaggiatori europei che già avevano oltrepassato Firouzkout erano stati respinti dalla capitale. Interrogammo alcune autorità ufficiali e spiegammo loro che, potendo provare che non saremmo più tornate a Teheran dal momento che eravamo dirette proprio nei territori di quei, tra virgolette, barbari afghani e che non avremmo avuto il tempo di ammalarci nel tragitto tra la zona pericolosa e la frontiera afghana, ritenevamo di non dover essere costrette all'immobilità. Fummo nondimeno obbligate a obbedire ai regolamenti e quindi a sottoporci a 3 iniezioni all'Istituto Pasteur. Di conseguenza, la nostra partenza fu rimandata di 8 giorni. Ci recammo da Mohammed Navroz Khan, rappresentante dell'Afghanistan, per assicurarci che il suo paese ci avrebbe permesso di entrare. Nonostante l'interruzione della siesta, egli era di ottimo umore e assolutamente certo di quanto affermava. Non appena avessimo toccato il suolo della sua grande nazione, le nostre difficoltà si sarebbero risolte. Nessuno avrebbe più preteso che noi compilassimo formulari corredati di domande sulla data di nascita, l'appartenenza a un dato partito politico, l'ammontare del reddito mensile. Le deprimenti predizioni di Herr Smet mi riportavano alla memoria i ben più gravi ostacoli incontrati a Mosca e a Pechino e peraltro superati. Ma Cristina si spaventò talmente da dichiarare di non voler partire prima di aver scritto tutti gli articoli che si era proposta. Giudicai la sua decisione una vera e propria follia. Il nostro principale obiettivo era di raggiungere un luogo positivo dove lavoro e salute si sarebbero alfine armonizzati. I suoi articoli non erano di interesse tale da giustificare un rinvio della nostra partenza. Le 3 settimane trascorse a Teheran avevano già di molto abbreviato il periodo che avevamo destinato alla nostra visita agli Hakin nella zona degli scavi. Soltanto oggi, mentre scrivo queste righe, capisco la ragione per cui Cristina non aveva tempo di far decantare in tranquillità le proprie impressioni. Una parte di lei presentiva di non avere più molti giorni da vivere. In certi periodi lavorava a pieno ritmo, sentendosi libera da quell'angoscia morbosa che invece la attanagliava in altri, costringendola a confessare di non essere in grado di sopportare ancora a lungo la sua lacerante disperazione. Il non equilibrio di Cristina era palese, anche la sua salute era instabile. Stati febbrili, infiammazione alla gola, mal di testa, inquietanti cedimenti delle ginocchia la tormentavano alternatamente. Il dottor Davis attribuiva tali malesseri a una pressione troppo bassa e le prescriveva come cura zucchero e affetto. Percepivo nella città un ambiente pericoloso per lei. Troppe tentazioni le erano offerte. Cristina non aveva forse mostrato segni di inquietudine quando un farmacista, riconosciutala, le aveva presentato un vecchio conto. Ero continuamente in ansia. Desiderava recarsi in città da sola. Aveva in merito progetti precisi. Se tale era la sua intenzione, avrebbe di certo trovato un pretesto per dileguarsi in qualche modo. Avevamo già visitato insieme il nuovo museo per studiare il vasellame prezioso lì esposto ed essere così in grado di fare paragoni con i reperti che gli Hakin stavano forse trovando. Un giorno, però, mi recai da alcuni conoscenti svizzeri per un tè. E Cristina non mi accompagnò, occupata a cercare un anello di platino perduto nei pressi della piscina. Quando 2 ore dopo infine mi raggiunse, non osai chiederle se veniva da Teheran. Ricordo che, assorta in tale pensiero, quasi non udii quanto dicevano i miei interlocutori. Evitavo con cura di parlare con lei del passato, né mai le chiesi particolari sulla bella Yaleh, morta in un'ambasciata poco distante. Né mai andammo a visitare la casa precedentemente abitata da Cristina, ma sapevo che la mia amica era turbata dal ritrovarsi a Teheran, dove era stata tanto disperata da scrivere: «Ogni sera mi accomiato e al mattino ecco riapparirmi l'inconoscibile. Consumate, finite le avventure, ma mille realtà da subire. Mi slancio, le assalgo, amo e nulla dimentico. Dietro di me cedri, oliveti, canzoni, colonne, vele e tende. E le impronte di zoccoli lasciate dai cavalli di popoli in marcia. E più ancora, le lontananze. Come un cavallo ombroso, la mia impazienza azzarda uno scarto a destra, a sinistra, per poi lanciarsi in avanti, sempre. Le lontananze. Per raggiungerle pago il prezzo di infinite notti bianche. I sentieri si defilano, diafani come vie latte, freddo, fame, sete. Ho ciò che volevo e non un luogo dove poggiare la testa e riposare. Non una mano tesa in un gesto d'aiuto. Se alla fine di una di queste notti mi avventurassi per strada, i vicini non mi riconoscerebbero più. Sarei simile ai ciechi, ai muti, ai mendicanti, e invano qualcuno mi offrirebbe del cibo invitandomi a gustarlo di buon appetito. Non proverai che sdegno per quella minestra data ai miseri per pietà. La fame, mia amica, la fatica, ogni fatica, benvenuta. Mi chino sui bordi delle sorgenti, incapace di estinguere la mia sete. Che importa? Già la mia impazienza ha valicato le montagne. Vado e il mio cuore è leggero, così vuoto, da lasciare che liberamente defluiscano in me forze, energie, profumi notturni, venti di mare e linfa stillata da piante, pioggia silenziosa, fruscio di rami, respiro di animali e di dormienti, ogni possibile pulsazione. La mia pazienza risale fiumi, plana sui campi come bruma d'aurora, scivola su greggi, percorre vigneti, carezza cime di alberi e di tende. Si unisce a pastori seduti intorno al fuoco. Non abbiate timore, è come se vedessi una folla d'angeli accompagnarmi lungo i lati del cammino, come se sentissi il mio essere fondersi in lacrime di gioia. Talvolta, al crepuscolo, quando l'ombra degli alberi sembrava penetrare nel salone dell'ambasciata, Cristina sfiorava i tasti del pianoforte a coda. La sua sagoma era appena visibile nella penombra, ma ugualmente percepivo quale profondo rispetto la compenetrasse quando suonava quelle eleganti armonie mozartiane, accenti della lontana Europa che dalla stanza si diffondevano nella profumata notte persiana. Ero straziata dal contrasto tra la vita tanto tormentata di Cristina e la perfezione della sua musica che vibrava leggera come neve. Si innalzava sino a vette abbaglianti, per quietarsi poi nel silenzio ovattato di ombrose foreste di pini. Quella notte di nuovo mi svegliai ai lamenti del lupo chiuso in gabbia, che urlava e ululava in modo così simile al mio cane eschimese Palazzi, quando, immobile sulla neve, abbaia puntando il lucido naso nero dritto sopra di lui, là dove brillano le stelle. L'inquietudine che tale richiamo mi suscitava mi convinse della necessità di partire al più presto, prima che la città di Teheran indebolisse del tutto il nostro animo. Mi sentivo in qualche modo contaminata, fiaccata dal continuo disquisire durante cene troppo frequenti. Non ero addestrata a sostenere quella feroce battaglia chiamata vita mondana. Dovevamo raggiungere Mashhad senza tardare oltre, se non volevamo rischiare di trovare chiuso l'accesso alla città per l'epidemia. C'era stato promesso un javas di uscita, un permesso. Un'ora dopo averlo ottenuto, ci mettevamo per strada. Divertite, immaginavamo l'espressione fra lo stupito e il corrucciato del ministro tedesco quando lo avremmo salutato con mille ringraziamenti per l'ospitalità offertaci nel corso del nostro viaggio verso l'Afghanistan. Gumbad i Kabus. In Iran partire è come un'equazione algebrica. Può riuscire o no? Osserva Robert Byron in The Road to Oxiana. Nuovamente in viaggio verso Levante. Provavamo l'euforia di essere alfine sfuggite a quei regolamenti che per poco non ci avevano costrette all'immobilità. Avevamo ricevuto una lettera degli Hakim in cui ci consigliavano di passare a nord di Herat, dato che lungo la strada abituale per il sud e Kandahar, il Helmand in piena aveva divelto il grande ponte. Suggerivano inoltre di prendere più chinino possibile per cautelarci contro la malaria, malattia che aveva reso il Turkestan afgano tristemente famoso. Già sentivamo l'Afghanistan come nostro, benché 1200 o 1300 chilometri si frapponessero ancora tra noi e quel paese. La strada serpeggiava sinuosa tra le colline sottostanti, l'Elburz. La Valle Felice di Cristina si stendeva poco lontano in una piega di quel grande Damavand che, al pari di tutte le vette isolate, ha ispirato più di una leggenda. Una di queste racconta che dalla notte dei tempi colà vive la grande fenice Simurgh, con un occhio rivolto al passato e l'altro all'avvenire. Ricordo di averne già sentito parlare anni addietro, a 500 km di distanza, passando ai piedi dell'Elbrus caucasico, vulcano spento anch'esso, così come il suo omonimo iraniano. Mi viene spontaneo pensare che gli antichi abitanti dei litoranei mediterranei avessero confuso le due montagne, il che ne spiegherebbe la denominazione simile. Simurgh salvò la vita a Zal portandolo con sé sulla cima del Damavand. Il bambino era stato abbandonato nel deserto dal padre che si vergognava di avere un figlio con i capelli bianchi. In seguito però egli si pentì e mentre era governatore dell'Indostan lo ritrovò con infinita gioia. Ritornando a cavallo attraverso il regno di Kabul, Zal era preceduto da una fama di assoluta perfezione. Anche la bellissima Rubadeh, figlia del re di Kabul, sentì parlare di lui. I due giovani alfine riuscirono a incontrarsi. La principessa lasciò cadere le sue trecce dal balcone e Zal salì da lei. Un grave ostacolo impediva però la loro felicità. La fanciulla, infatti, era una discendente di Zohak, nemico ereditario della famiglia del suo innamorato. Per buona ventura, gli astrologi di corte predissero che tutto si sarebbe concluso per il meglio, poiché il figlio nato da Zal e da Rubadeh Rustam sarebbe diventato il grande eroe persiano, il campione dell'Iran contro il Turan. Sempre ai piedi del Damavand, Feridun il Giusto incatenò il re demone Zohak, da cui ebbero nome quelle orgogliose rovine che presto avremmo visto nei pressi di Bamiyan. Lasciamo la strada diretta per Mashhad, volendo assolutamente ammirare il Gumbad i Qabus, che si erge solenne tra le steppe a est del Caspio. Deviammo dunque a nord e dopo il colle di Firuzkut scendemmo verso il mare. La ferrovia transiraniana, la prima in un paese vasto tre volte la Francia, era stata inaugurata nel 1938. In 24 ore passarono tre treni. Sui vagoni merci erano dipinte le insegne dell'Iran, con il leone che brandiva la spada di discriminazione di Ali. Trainato da due enormi e brillanti locomotive, il treno si inerpicava sul fianco della montagna prima di scomparire in una delle 85 gallerie che permettevano alla via ferrata di superare un dislivello di 2000 metri dal mare fino al colle di Firuzkut. Lungo la strada spuntava come un fungo velenoso nato dalle rotaie, un rugginoso borgo costruito con il metallo recuperato dai contenitori di benzina, simbolo di progresso, così dicono. L'esatta riproduzione delle bidonville sorte alla periferia di Parigi. La strada fendeva ripida la valle Riarsa tra scisti, ghiaia, rocce incolori, finché il verde elettrico delle prime risaie terrazzate non stupì i nostri occhi come un grido di gioia sorprende l'udito dopo un lunghissimo silenzio. Costante e intenso dietro le piccole dighe a mezzaluna, quel verde era tanto brillante da indurre facilmente a credere che tale lo rendesse un qualche colorante chimico. Più in basso, dove il riso era già maturo, quella tinta assumeva tonalità dorate, si arricchiva di riflessi come un taftà di bucara. Scendemmo ancora e ancora, prima lungo una gola e poi attraverso il folto e umido sottobosco di una foresta subtropicale, e infine giungemmo sui campi pianeggianti del Mazandaran, la provincia più ricca dell'Iran. Qui, piccole dimore tutte uguali, imposte dallo scià, avevano sostituito le semplici abitazioni di un tempo con il tetto di stoppia. Con la sua piazza centrale, contornata da case moderne ben allineate, Shahi fu la prima città che incontrammo. Era difficile immaginare che nella giungla vicina si aggirassero ancora daini, tigri, leopardi e cinghiali. Cristina osservò che ci si sente veramente lontani dalla patria quando per incontrare un conterraneo e per nessun altro scopo si allunga con deviazioni il percorso del proprio viaggio. Passammo la notte ospiti della famiglia di un ingegnere svizzero direttore di una filiale di 2000 operai. Alcune sue considerazioni corrispondevano a quanto diceva il ministro tedesco. Non è da ritenersi negativo che fanciulli di 8-10 anni lavorino nelle fabbriche. Imparano un mestiere. Si insegna loro qualcosa oltre alle fondamentali norme igieniche. Noi occidentali sbagliamo quando, trasferiti in Iran, speriamo di applicare qui le nostre regole di vita. Lasciati a se stessi, quei bambini sarebbero sfruttati a oltranza dai commercianti locali e come paga non riceverebbero che una buona dose di botte. La legge vieta che un europeo alzi le mani su un iraniano, precisò il nostro ospite. Se però un ispettore indigeno scopre nel suo giro di controllo un maldestro o un ozioso, accade spesso che lo colpisca duramente, poiché è l'unico mezzo per ottenere qualche risultato in questo paese. L'ingegnere svizzero, inizialmente contrario ai castighi corporali, aveva poco per volta cambiato parere. Quando un operaio si era ferito alla mano per la seconda volta a causa della propria stupidità, sentendolo lamentarsi che la colpa era del capomastro, egli l'aveva picchiato dicendogli: «Così imparerai a non immischiare il tuo capo in faccende che non lo riguardano». ovunque vi fosse il raccolto o la manifattura di prodotti, i giovani lavoravano con profitto fino all'età di 18 anni. Poi i maschi si davano all'oppio e le ragazze si sposavano estenuandosi in continue maternità. Reza Shah regnava con altrettanta crudeltà dei precedenti Shah, Abbas o Ciro, ma forse era il solo mezzo per ottenere ciò che voleva. Costrette a detergerci continuamente il sudore dal viso, provavamo pietà per chi doveva lavorare in questo clima da serra. Durante la notte il calore greve ed esasperante ci soffocava come una coperta di cui è impossibile sbarazzarsi. Soltanto in macchina trovavamo sollievo, rinfrescate dalla brezza che la velocità creava intorno a noi. Un'ora di viaggio ci portò da Shahi sulle rive del mare a Babolsar, che per qualche verso evocava Trouville ai suoi inizi. Lungo la grande spiaggia deserta si allineavano le cabine e uno stabilimento. A bordo di un rudimentale battello, alcuni turcomanni scaricavano lentamente assi di legno nere come il ferro. Pagaiavo in un tronco svuotato a forma di canoa, così pesante che con fatica riuscii a tirarlo a terra. Nuotare in quel mare stanco non vivificava in alcun modo il mio corpo fiaccato. Le sue pallide acque accoglievano una gran quantità di storioni, alcuni dei quali arrivavano a pesare anche una mezza tonnellata. Nella vicina fabbrica ci informarono che il caviale era il migliore del mondo. Avevamo già udito apprezzamenti analoghi sui tappeti moderni e sulla nuova ferrovia. La bianca facciata dell'albergo catturava tutta la luce del sole. L'edificio era stato terminato 2 anni prima, in gran fretta, perché lo Shah si aspettava che Kemal Atatürk gli rendesse la visita. Là mi era capitato di scoprire, dissimulato nella parete dell'appartamento più bello, ma che resti un segreto, un microfono, che però non era servito allo scopo, dato che Atatürk non era mai arrivato. I dintorni di Babolsar, divelti gli aranceti, dove si annidavano di preferenza le zanzare della malaria, avevano assunto l'aspetto di un luogo indefinito più che di una spiaggia alla moda. La nostra strada continuava verso est, attraverso verdi foreste assordanti di stridii, di cicale e campi lussureggianti sovrastati da instabili altane. Essa costeggiava piccoli borghi protetti dalle belve feroci, con alte siepi di rovi o campi di cotone costellati di fiori gialli e rosa. Traslanciati ciuffi di canne argentee, ci avvicinammo a una costruzione, forse una piccola chiesa orientale, coperta di vecchie tegole. La sporgenza del tetto formava una lunga galleria a gorgiera intorno alla torre circolare. Era un edificio dall'aria molto antica. La cupola cono appiattito, simile a un cappello cinese, sormontava un tamburo accorpato sotto cui una semplice arcata era imbiancata a calce. Alcune vecchie pagine di Corano, protette in una nicchia del muro, indicavano che si trattava di una moschea. Osservammo un gruppo di donne e bambini venuti in pellegrinaggio. La loro singolarità ci colpì. Avevano volti di una bruttezza quasi scimmiesca, lineamenti marcati, capelli crespi ed enormi bocche. Secondo il libro dei Re, sulle sponde del Caspio, lontano dagli altipiani abitati dagli Ari, vissero genti di razza demoniaca. Quasi a riprova, una ragazzina dalle labbra spesse sembrava sogghignare guardandoci sotto le pesanti sopracciglia nere. È possibile che questa moschea, dall'apparenza di una chiesa, non sia un monumento storico, ma a noi piaceva perché era la nostra scoperta. Nessuna guida ci aveva spinti a visitarla. Ogni giro di motore ci avvicinava al Turkestan sovietico. Mangiammo in un villaggio dove il nostro interprete era un russo che vendeva vodka al dettaglio. Proveniva da Baku e aveva sperato di arricchirsi in breve tempo nell'Iran capitalista, ma l'apatia e la povertà che aveva incontrato gli facevano amaramente rimpiangere la propria decisione. Venimmo a sapere che una colonia di rifugiati russi viveva a Malakan, mentre a Kargush Tepe si erano stanziati alcuni veri kirghisi che ancora portavano i caratteristici stivali col tacco alto e sapevano fare del buon formaggio. Numerosi cittadini sovietici hanno cercato rifugio in Iran. Nel 1934 migliaia di fuggiaschi turcomanni, pare 30.000, arrivarono a Mashhad. Per converso, molti iraniani erano emigrati nel Turkmenistan sovietico pur di non sottostare alle nuove leggi che forzavano i nomadi a diventare contadini. Quando, in anni passati, la mia amica Irene visitò Gumba di Kabus, trovò prigionieri in questa grande torre numerosi capitribù tenuti in ostaggio nell'attesa che i loro figli ritornassero dalla Russia. Superata la città di Gorgan, i nostri sguardi si volsero verso nord, dove doveva apparire il Gumbad. Lasciammo la grande strada e subito la contrada cambiò completamente. Entravamo nella steppa. Fino al lontano orizzonte, l'erba alta e gialla crepitava di secchezza, riportandomi con il pensiero alla piana lungo le sponde dell'Amu Daria, l'antico Oxus. Mancavano soltanto le kibitka, quelle tende rotonde di panno tipiche delle regioni situate tra il Caspio e i pianori della Manciuria. Nelle zone dove un tempo pascolavano a centinaia di migliaia pecore, cavalli, cammelli, non vi era più traccia di vita. Scomparsi ormai i nomadi e le loro usanze, anche se avessimo proseguito verso est fino a Boinurd, non avremmo incontrato nessuno di quei turcomanni, un tempo famosi allevatori di cavalli. Non esistono più. Dinanzi a noi, sovrastante un boschetto si ergeva una costruzione simile a un faro, o meglio a un silo circolare. Avvicinandoci però, ci rendemmo conto che non poteva essere né l'uno né l'altro. Le sue pareti non erano lisce, ma solcate dal basso fino alla sommità da ben delineati costoloni longitudinali. Era come un fantastico rotore abbandonato su questa frontiera asiatica da un geniale inventore. Si trattava della tomba del re Kabus, edificata 10 secoli prima. Al crepuscolo ci inoltrammo nella piccola oasi, due vie ad angolo retto bordate di alberi. Là, sul belvedere della casa di un commesso viaggiatore armeno, dovevamo passare la notte peggiore di tutto il nostro viaggio.